al 10% è appena terminata, il presidio è cominciato questa mattina all'alba, la presenza diciamo in piazza davanti alla Cassazione, e c'era il gruppo degli anarchici, insomma il numero abbastanza consistente, e poi noi della campagna sempre all'interno della piazza siamo abbiamo prima della conferenza stampa consegnato formalmente le firme alla Cassazione. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio perché non volevano farci fare questa cosa, poi alla fine dopo una piccola trattativa siamo riusciti a entrare e a far quindi protocollare queste firme, a breve usciremo anche con il comunicato, e poi quando i compagni e le compagne sono tornate giù abbiamo parlato in conferenza stampa. Erano presenti molti giornalisti, molte telecamere, sebbene qualcuno di loro è dovuto andare in comune perché ne avrete già parlato, insomma è stato fermato il vicepresidente della provincia, però sì, sì. Il vicepresidente, scusate, del comune di Roma. Quindi abbiamo ribadito i contenuti principali della campagna. Noi vogliamo l'annullamento della sentenza appunto che incrimina questi 10 compagni e compagne per i fatti di Genova, abbiamo ribadito che non accetteremo delle equazioni complementari inique, perché si prospetta anche lo scenario che qualcuno di questi compagni venga assolto, cioè venga annullata la condanna per alcuni di loro e per altri invece venga confermata, e quindi, come abbiamo ribadito in conferenza stampa, non accetteremo che neanche uno ovviamente venga condannato. E ci sono stati interventi vari, appunto di vari compagni, di Fabrizio della radio, di Vincenzo Migliucci, di Lorenzo, di Strike, insomma tutte le persone che hanno in questo mese e mezzo portato avanti la campagna. Quindi siamo ovviamente in attesa, abbiamo dato appuntamento per questa sera a Piazza Trilussa, perché noi la sentenza la attenderemo da Piazza Trilussa, quindi con un altro presidio e un incontro pubblico a cui abbiamo invitato ovviamente tutti a partecipare. E a questo punto ricordo pure che ci sono state in questo mese, ma soprattutto ieri e oggi, un sacco di iniziative in giro per tutta Italia, a Taranto, a Salerno, a Napoli, a Milano e in molte altre città, a Bologna, quindi questo dà la misura dell'interesse e della preoccupazione che c'è diciamo da parte del movimento, di buona parte del movimento, di tutto il movimento su questa questione. Quindi, come dire, rimaniamo tutti in attesa della sentenza della Cassazione stasera. Assolutamente. Va benissimo, ti ringraziamo, noi diamo parola anche agli altri e niente, un abbraccio a te e a tutti, grazie, tutti voi, ci sentiamo grazie più per tutto tardi. Il lavoro che avete fatto. Ma l'abbiamo grazie. Fatto tutti insieme. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao.